Ora, a seconda di come le posizioni le guance, il palato, la lingua, ottieni l'altro. Non mi maledite. Per circolazione siamo. E niente, questa è, se volete tornare anche domenica mattina che grigliamo, dopo la messa, ovviamente. Una messa così sarebbe molto bene. Prima si fa messa e poi ci si prende la scala. Prima si fa messa e poi ci si prende la scala. No, anche voglio dire, a messa il Padre Nostro, un po' di ritmo. Scambiate un segno di pace. Bam! Grazie. Okay.